dieci stelle che scintillanti e belle il trono mio fregiate di chiaro inestinguibile splendore. Voi che i momenti e l'ore dal primo re vitale accompagnate, venite ubbidienti in questo re felice e a me presenti ragion mirate degli influssi vostri su quest'alma immortale che in Già fin d'allora che siete giù, dalla natia sua stella, l'anima forte e bella, di fuoco militar tutta la cinsi. Ed in quella stess'ora che nacqui al mondo, al fianco suo mi strinsi. Che l'alma di Quimpera sia verdiera e sia fulmine terror, vo che l'alma di Quimpera sia verdiera e sia fulmine terror. Che l'alma di Quimpera sia guerriera, sia guerriera e sia fulmine terror. Alla sua mente io starò vivo e presente, invisibile d'ognor. Io starò vivo e presente, invisibile d'ognor. Che l'alma di Chimera sia guerriera e sia fulmine, fulmine terror. O che l'alma di Chimera sia guerriera e sia fulmine terror. Vo che l'alma di Chimera sia guerriera, sia guerriera e sia fulmine terror. Vo che l'alma di Chimera sia guerriera e sia fulmine terror. Mm-hmm.